vivo c'è tutto intorno, mi chiedevo e prie, siamo d'accordo per il mio hobby, c'è un che stavo le chamar, ci partirà di qua, stavo le chamar, ci partirà di qua, stavo le chamar, ci partirà di qua, stavo le chamar, ci partirà di qua. Stavo pensando, ci calderà tutta.